Sì. Allora, buonasera a tutti e a tutti, benvenuti, benvenute per questa serata qui in biblioteca. Abbiamo ricominciato, il nostro autunno è cominciato con un sacco di attività. Stasera abbiamo una presentazione di libri, ma prossimamente avremo la prossima settimana Spazi Colti, un libro sui giardini del Trentino, e poi la settimana successiva invece una conferenza con Claudio Lucchin, l'architetto di Bolzanino, che molti di voi conosceranno sicuramente. E poi l'altra cosa che, insomma, cominciamo proprio in questi giorni sono i due nuovi, anzi uno nuovo e uno no, gruppi di lettura. Abbiamo il nostro ormai collaudatissimo localmente, che appunto è il gruppo di lettura di narrativa locale, e la novità dell'anno, insomma del momento, è Cosmoteca. Cosmoteca si aggiunge a localmente e, come dice il nome, insomma è un gruppo di lettura legato all'astronomia. Una novità: se volete partecipare, dal 24 di settembre, una volta al mese, gli incontri, sapete, sono mensili, e si parla dei libri, insomma, in questione. Bene, passiamo a Marco Crestani, che siamo qua, siamo a questa settimana, a oggi, e lo presentiamo molto volentieri. È un nostro, tra l'altro, ci siamo ricordati di vecchie, insomma, di precedenti pubblicazioni che è venuto a presentare in biblioteca, addirittura nella nostra vecchia sede, e insomma abbiamo fatto anche un po' così, un po' di memoria, insomma ci siamo un po' ricordati. Sì, sì, sì, sì. E oggi invece parliamo dell'Armonia del Tre, il suo libro, l'ultimo libro, e quindi grazie per essere intervenuto. Grazie a voi, grazie a voi di tutto. Ecco, allora, per me è sempre molto emozionante trovarmi qui a Bolzano, tra l'altro veramente con sì, anche degli amici cari che tra l'altro non ho avuto modo di vedere questa volta, perché ci siamo frequentati negli anni scorsi, come la Patrizia Zangirolami, che è tanto cara, insomma tanto una persona con cui anche ho corrisposto nel tempo. Ecco, a proposito di donne, no, di cui si parlava prima. Oggi sono qui con voi a presentarvi un saggio. Le altre volte ho visto che ci sono qui altri quattro libri, manca anche il quinto, quello delle foglie di tabacco, che è stato uno dei primi che sono venuto a presentare, che parlavo dei contrabbandieri della Valsugana. Ecco, è stata anche quella una bella storia, tra l'altro, con cui anche doveva nascere una collaborazione per un'uscita teatrale con Paolini, Marco Paolini, che è mio vicino di casa, che aveva veramente preso a cuore questa storia. Poi, vabbè, ha avuto anche lui delle vicissitudini e le cose si sono spostate su altri argomenti. E la gioia è quella di presentare un saggio, che è un saggio difficile da definire, da inquadrare. Non è un saggio filosofico, né un saggio probabilmente neanche storico, essendo io di formazione storica, ma è un saggio quasi psicologico, sociale o difficile da targettare, no? Come per esempio l'ha definito Anna Menichetti, che è a proposito, ecco, ritorniamo sulle donne, una giornalista di Radio Rai, che così gentilmente me l'ha recensito una mattina. Ho avuto la sorpresa alle 6 di mattina, lei conduce questa bellissima trasmissione su Radio 3, che parla soprattutto di musica, ma analizzandola alla luce di un libro. E ha dedicato tutta questa puntata all'Armonia del 3, con grande piacere e grande anche soddisfazione, perché insomma alla fine, quando parla di una creatura, insomma, che è venuta da te, insomma, alle volte è anche emozionante, quasi come parlare magari con una persona che non rivedi, che non risenti da tanto tempo. Anche perché è andata a cogliere degli aspetti molto, molto particolari di questo libro. L'ha definito addirittura un gioco enigmistico, perché dice, si è riuscito a parlare delle parole chiave, no? Un po' come si fa adesso con il web, no? Anche, oppure con l'intelligenza artificiale, che diciamo è una cosa parecchio difficile da capire. Anche perché poi bisogna controllare sempre, perché quando ti fa delle supposizioni o quando parla di determinati argomenti è un problema andare a citare le fonti. Io, essendo storico, sono abituato proprio a confrontarmi con le fonti. Quando scrivo qualche cosa devo sempre sapere che quel qualcosa è veritiero e corrisponde a qualcosa di effettivamente vero. e con queste nuove tecnologie è sempre più difficile. Questo libro è nato nel tempo. Io era da tempo che mettevo, che mi appassionavo a determinati argomenti e mettevo via nel mio database, come si dice oggi, delle notizie, delle storie. Storie che poi sviluppavo facendo dei libri. Ultimamente mi dedico molto, per esempio, ai cammini. Adesso, tra l'altro, uscirà un libro mio su dei cammini in Maremma, quindi delle cose abbastanza particolari, però non da touring club, ecco, non che ti spiega esattamente, ma descrive soprattutto il sentimento, la storia, i luoghi, ecco, è un po' una geografia dei luoghi, ecco. E così, di punto in bianco, mettendo appunti, nasce questa idea. Era la fine dell'anno scorso, avevo questi appunti, conosco una giovane ragazza editrice a Taranto, tra l'altro una ragazza splendida perché fa delle pubblicazioni con poeti di levatura internazionale, tra cui Milo De Angelis, tanto per citare. Lei stavamo parlando del libro proprio di Lucrezio che Milo De Angelis ha tradotto ultimamente, Der Rerum Natura, no? Che è uno dei capisaldi proprio della botanica, della scienza, ecco, ma poi anche della poesia, se vogliamo. E parlandogli dico: "Ma guarda, ho in mente di fare questa cosa guarda, se tu pensi di farla, mandami che potrebbe essere interessante pubblicarla." Io invio le prime bozze, che poi è un testo che poi magari vi leggerò, perché io nel frattempo pubblicavo sul web, ecco, grazie in questo caso a internet, su questo sito che ho già da tanti anni, pubblicavo questi articoli. E pubblicandone uno, due, tre, appunto, ne ho pubblicato qualcuno in più per la verità, mi contattano in quattro o cinque editori. Quindi si è istituita una specie di piccola gara. Però lei era stata la prima che me l'aveva chiesto. E io purtroppo sono di parola su queste cose qua, non riesco a tornare indietro. Ci siamo sentiti, gli ho detto: "Guarda, io nel frattempo ne ho preparati altri 10 di pezzi. Guarda, cosa ne pensi? Se riusciamo a imbastire un libricino o qualcosa, facciamo anche un ebook, no? Si chiama adesso, quelli che pu puoi pubblicare solo sul web." E lei mi dice: "Sì, beh, guarda, io vorrei fare un libro, vorrei fare un saggio, noi abbiamo una collana di saggi, e dovresti farmene 54." Boh. Allora, da buon veneziano, 54 è un numero che sì, mi dice tante cose, ma soprattutto mi dice la fortuna, no? Perché è un numero che indica in tanti casi la fortuna. E ho detto: "Beh, facciamone 54, il materiale c'era. Ho accostato all'ultimo momento argomenti i più disparati perché volevo fare una cosa pazza, strana, che non l'aveva mai proposta nessuno. Prendere tre argomenti, in nome del numero tre, completamente diversi uno dall'altro e accostarli, metterli insieme e trovare, in questo caso, che cosa? Trovare l'armonia, cioè cominciare a fare dei ponti tra un argomento e l'altro, anche se questi argomenti erano completamente diversi uno dall'altro. E alla fine è venuta una cosa veramente interessante anche per me, perché è stata una cosa che ha richiesto impegno e molta dedizione. E mi ha preso talmente che nel giro di 8 mesi sono riuscito a completare i famosi 54 pezzi, che poi abbiamo pubblicato nel giro di un mese. E loro ci hanno creduto, perché ci hanno creduto assolutamente, evidentemente un po' un distributore che ha avuto evidentemente anche delle buone soffiate, come le chiamiamo noi dal punto di vista editoriale, e hanno deciso di pubblicarlo in oltre 2000 copie. Il che di questi tempi è una cosa stranissima, soprattutto per un saggio che dice una cosa. Vabbè, ed è nato questo libro, editora o editrice, casa editrice però editora, ci tengo a dire, una ragazza di 36 anni, di Taranto, che ci ha creduto e ha voluto essere appunto con questo che tra l'altro all'inizio è fallone editore, io ero come, ma caspita, ma posso, devo veramente, io che sono così appassionato di romanzi dell'Ottocento, di Dumas, trovare un editore che si chiama Fellone. Io chissà perché mi era entrata la testa Fellone, no? Che era l'offesa che si faceva nei duelli, no? Tu Fellone, tu, no? E lo si colpiva con la spada. In realtà lei, cioè, è stata una di una. Io penso è difficilissimo trovare una, anche in fase di costruzione, in fase di editing, perché è lì che valuti e vedi veramente il valore di un editore, perché alla fine, insomma, sarebbe tutta vanity press, no? Se noi stamperemo le nostre cose e le getteremo così in pasto, diciamo, ai parenti più prossimi, dopo esauriti quelli, non ti resta altro. Avere il valore di un editore che riconosce un testo è un'emozione, è un qualche cosa che aiuta, insomma, ecco, ad avere lo stimolo per concluderlo. Io adesso volevo leggervi questo primo testo che parla. Loro hanno fatto, lo chiamano book trailer, no? Quindi se andate su YouTube trovate l'armonia del 3, trovate questo book trailer di 1 minuto, che racconta che cosa è questo libro, che cosa vuol dire, ha tentato di far capire che cos'è questo libro. Però io penso che lo si possa capire qui, in questo piccolo racconto, che io vorrei leggervi, così anche per rendervi partecipi. Si intitola Tre fili. Come un tessitore artigiano che lavora la sua trama più preziosa, la mente umana è in grado di intrecciare fili di pensiero apparentemente sconnessi tra loro, dando vita a significati spesso inattesi. Non si tratta di un mero esercizio di stile, ma di una vera e propria danza cognitiva che espande i confini del pensabile, spingendoci oltre i limiti delle nostre consuete mappe mentali. In questo caleidoscopio intellettuale, ogni rotazione rivela nuove configurazioni di senso. Le radici etimologiche di una parola antica si intrecciano improvvisamente, grazie a questo gioco, con il glamour scintillante di Hollywood, perché si citano anche film. Mentre la saggezza dei filosofi greci trova echi profondi nelle gesta degli atleti contemporanei, quindi paragoni gli atleti dell'antica Grecia agli atleti di oggi. È un gioco di risonanze dove l'arte del fumetto, di cui anche si parla molto spesso in questo saggio, può illuminare una scoperta scientifica, e dove i versi di un poeta possono guidare i passi di un esploratore attraverso territori inesplorati. Come in un laboratorio alchemico medievale, questa pratica fonde elementi apparentemente incompatibili in un'amalgama sorprendente. Ecco, sorprendente, io direi, è anche la parola chiave, perché sono io stesso anche alle volte sorpreso di quello che il testo produce, no? Ed è un po' quello che diceva anche Pontigia, no? Che lo ha detto spesso, no? Nella sua, nel, quando lui parla di scrittura e di narrazione. Dice: la sorpresa quando uno scrive, la bellezza dello scrivere è trovarla in quello che si scrive, non immaginare neanche quello che si riesca a produrre, perché dice: tante cose non vengono da noi, c'è qualcosa d'altro, c'è qualcosa di magico nella scrittura. Allora, le note aggressive del rock, in questo caso, dopo ne parlerò in diversi casi, si fondono con le armonie raffinate della musica classica o della musica jazz, creando una sinfonia inedita. I meandri della memoria personale si intrecciano con le traiettorie dell'evoluzione tecnologica, perché si parla molto anche di scienza e di tecnologia, che è una delle passioni, insomma, che porto avanti da tanto tempo e che documento e argomento, generando narrazioni che trascendono il tempo lineare. La scelta del numero 3 in questa architettura del pensiero non è casuale, ma risponde a una precisa logica compositiva. Mentre due elementi rischiano di cristallizzarsi in una sterile opposizione binaria, tre elementi creano una tensione dinamica necessaria per generare nuovo significato. Filosofi, tesi, antitesi, sintesi, sono tre. Trinità, la trilogia, tante altre cose, insomma, il 3 è presente. Come in un laboratorio di specchi dove ogni volta rivela una nuova prospettiva dell'immagine riflessa, questo approccio invita a leggere oltre il visibile, a scoprire le connessioni nascoste che legano fenomeni apparentemente distanti. È un invito a esplorare i significati latenti che si celano negli interstizi tra le parole, nelle pause tra i pensieri, nei silenzi tra le note. Il risultato è un testo che respira, soprattutto respira, a diversi livelli di profondità. In superficie offre una comprensione immediata del concetto. Scendendo più in profondità, rivela le sue stratificazioni metaforiche attraverso le immagini del tessitore. Mi si parla sempre dai tre fili e dal tessitore, dall'artigiano, perché da tanti anni lo dico, insomma, chi scrive è un artigiano fondamentalmente. A un livello ancora più profondo si apre a una riflessione filosofica sulle dinamiche stesse del pensiero, per culminare infine in una metodologia pratica per l'esplorazione delle idee. Cioè, è un modo per non tenere fermo il cervello deve espandersi, deve muoversi, deve correre da una parte all'altra, ma lo deve fare in modo molto calmo, tranquillo, perché se si è troppo frenetici, se si ha troppe cose da fare, vedo adesso i ragazzi di adesso, no? Che sono multitasking, no? Si finisce per non farne nessuna bene, se ne fanno tante magari, ma nessuna bene. In questo modo il testo diventa esso stesso un esempio vivente del principio che descrive, un intreccio triadico di forma, contenuto e significato, che si arricchiscono reciprocamente in un dialogo che potrebbe anche essere senza fine. E quindi abbiamo fatti 54, insomma, qualcosa si è creato. Poi, vabbè, si parla del dialogo tra 1, 2 e 3, da dove derivano nella numerologia l'1, il 2 e il 3, interessante, insomma, vi invito anche a leggerlo, perché veramente si scoprono cose che, alle volte io per esempio, mi viene in mente che quando l'abbiamo pubblicato uno dei primi libri, che io l'ho portato alla mia mamma, no? Mia mamma. E lei la prima cosa che ha fatto e mi ha detto, ma alla fine, ma cosa, cioè... Ecco, cioè cosa vuol dire sto libro qua, no? Allora in poche parole gli dico, ma guarda, prova a leggerti qualcosa, se no quello che non capisci, adesso magari potrei anche dirlo in dialetto, forse capito il veneto di ecco, veneziano, peccato. E mia madre mi dice sempre, cioè, ma alla fine quello che non capisco mi scrivo. Allora il suo blocco con tutte le parole chiave e fatalità erano tutte le parole chiave che mi ero scritto anch'io per scrivere il libro, perché alla fine le parole sono un collegamento tra di loro, insomma. Cioè, quindi bisogna proprio andare un po', cercare di tirare via le prime cose difficili, non prendere paura, perché non è un libro difficile, ecco. Quello è, anche se ci sono delle parole che effettivamente mettono un po' di soggezione. Vi voglio leggere invece, per farvi capire, no, come ho lavorato, che c'è, ecco, questo qui, che ci sono delle cose piccole, dei racconti piccoli, che vi possono far capire come ho impostato il lavoro. Allora, mi pare, per partire con una cosa abbastanza facile, come li ero segnati, eccolo qua. Allora, ascesa e accettazione. Voi vi ricordate i Led Zeppelin, il gruppo degli anni 70? Cioè, penso che ve li ricordate ancora più di me. C'è questa canzone che dicono che è una canzone maledetta, no? Una canzone diabolica, Stairway to Heaven, cioè la strada per il paradiso, anche se ha un titolo, no? Ecco, io questa cosa qua l'ho paragonata, l'ho messa insieme a Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, un altro libro che dice, ma cosa c'entra con Led Zeppelin? Vabbè, e poi... Insieme a questo cosa ho messo? La filosofia, poi bisogna vedere se è una filosofia, ma dicono che è una filosofia, anche se è ispirata a Lao Tse, di Bruce Lee. Vi ricordate Bruce Lee, quello che faceva Kung Fu? No? Ecco, lui diceva delle cose molto interessanti. Per esempio diceva, una cosa che mi era rimasta impressa, era il fatto che diceva non bisogna essere rigidi, bisogna essere come l'acqua, perché se sei rigido, se sei troppo rigido ti spezzi. Se invece sei flessibile, riesci a schivare i colpi, riesci a muoverti meglio, riesci a dare più forza alle cose che fai. Ecco, io mi ricordavo quello. Poi ho approfondito e ho trovato anche altre cose. Nel vasto panorama culturale del XX secolo, tre opere apparentemente eterogenee, cioè diverse, una canzone rock leggendaria, un romanzo esistenziale italiano e una filosofia orientale convergono in una riflessione profonda sulla condizione umana e il suo eterno oscillare tra spinta verso l'alto e rischio dell'immobilismo, dell'essere immobili. Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, con la sua costruzione musicale progressiva, che simboleggia un viaggio spirituale, rappresenta la tensione dell'uomo verso la comprensione di sé e del trascendente. Cioè è una canzone spirituale. I testi volutamente criptici, cioè nessuno ha mai, ancora adesso dibattono, cercano di capire che cosa volessero dire, e ricchi di simboli, suggeriscono un percorso interiore carico di speranza, ma anche di incertezza e di dubbio. La scalinata per il cielo diventa così un'allegoria della crescita personale, una ricerca di risposte che trascendono la dimensione meramente materiale. Eppure, come ogni percorso spirituale, anche questa ascesa è avvolta nell'ambiguità. Il cielo. Il cielo promesso potrebbe non coincidere con le nostre aspettative, generando tensione tra desiderio e realtà. In contrasto con questa ricerca, ho pensato al romanzo Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, che ci introduce in una dimensione oppostamente immobile e passiva. Lui è là che aspetta il nemico o chi deve arrivare. Il protagonista, il tenente Giovanni Drogo, trascorre la sua vita nella fortezza Bastiani, al confine di un deserto inospitale, attendendo un nemico che forse non arriverà mai. Questo deserto diventa la metafora di un'esistenza in sospeso in cui il tempo scivola via senza offrire grandi opportunità. La fortezza con le sue rigide gerarchie rappresenta una prigione simbolica per Drogo, che si consuma nell'attesa di un evento che forse non avverrà mai. Buzzati ci parla così della nostra condizione umana. Rimaniamo spesso intrappolati nelle nostre aspettative attendendo che un momento di gloria o una grande opportunità ci cambi la vita, senza renderci conto che nel frattempo la vita stessa sta scorrendo inevitabilmente. In contrasto con queste due visioni dell'esistenza, la scalata incerta, Stairway to Heaven, e l'attesa immobile, emerge la filosofia di Bruce Lee, che sintetizza, e poi questo sono andato proprio a vederlo e a cercare di intuirlo proprio dei testi che lui scrive, in modo cristallino il concetto di adattamento e flessibilità. Influenzato dal taoismo e dal buddismo, Bruce Lee esprime l'idea emblematica di essere come l'acqua. L'acqua, nella sua capacità di fluire, di adattarsi a qualsiasi ostacolo e di prendere la forma del recipiente che la contiene, diventa una potente metafora della vita. Lee afferma che per vivere pienamente non bisogna restare bloccati nell'attesa passiva come Drogo, né nella ricerca ossessiva di una via perfetta, non esiste. Il suo approccio ci esorta ad accettare il cambiamento continuo, a non opporre resistenza al flusso naturale degli eventi. È proprio la nostra capacità di adattarci e di fluttuare con le circostanze che ci permette di superare gli ostacoli, trovando armonia ed equilibrio. Osservando da vicino questi tre aspetti, emerge una riflessione comune sulla condizione umana. L'uomo è intrappolato tra la tensione verso l'alto e il rischio dell'immobilismo. Stairway to Heaven parla di una ricerca spirituale che, pur puntando verso un traguardo sublime, potrebbe rimanere incompleta o incomprensibile. O incompresa, ecco, non è anche incomprensibile. Il deserto dei Tartari mostra la tragedia di un'esistenza consumata nell'attesa di un momento decisivo che non arriva. E Bruce Lee, con la sua filosofia dell'acqua, ci invita a non restare fermi né a inseguire ossessivamente mete irraggiungibili, ma a fluire con la vita, accettando ciò che essa ci porta. La soluzione, allora, sembra risiedere nella capacità di bilanciare aspirazione e adattamento, come tutte le cose, no? È un bilanciamento. Mentre è giusto ambire a qualcosa di più grande, la scalinata, è altrettanto essenziale però non lasciarsi consumare dall'attesa o dal rimpianto. La vita non è un cammino lineare verso una destinazione precisa, né un deserto in cui attendere passivamente il nostro destino. La vita è movimento, cambiamento, come l'acqua che fluisce senza mai fermarsi. Ecco, solo trovando questo equilibrio tra slancio e accettazione potremo sperare di affrontare con autenticità la complessa e misteriosa avventura della nostra condizione umana. Ecco, questo è un po' per farvi vedere come vengono messi tre argomenti insieme e poi alla fine si cerca un po' come, diciamo, la tesi, l'antitesi e la sintesi in filosofia, due argomenti magari contrapposti e l'altro che sintetizza, che cerca di mettere in comune delle idee che effettivamente ci sono in comune, ma che però, insomma, vanno un po' alla volta con calma raggiunte. Diverse persone mi hanno detto: ma sei troppo positivo quando scrivi queste cose qua. Una delle prime cose, ovvio, siamo in tempi pessimisti, no? Cioè, è logico che si dicono delle cose positive, però io ho cercato di essere più antiretorico possibile, perché ho sempre imparato a studiare e a rifarmi, diciamo, a dei fatti concreti, grazie a dei fatti concreti, perché ho sempre studiato la storia in modo non superficiale, ma sempre profondo. È chiaro che, sì, permettetemi, non posso esprimere idee, cerco di evidenziare quello che le parole chiave mi hanno suggerito, e quello che mi hanno suggerito è stato questo. Ecco, questa è stata la cosa che un po' ho risposto. Però, insomma, è sempre un lavoro che viene fatto meticoloso, che se non lavori sulla carta non riesci, riesci a barcamenarti all'interno di tutti questi argomenti così difficili anche da mettere insieme, ecco, l'uno con l'altro. Ve ne voglio leggere un altro, un po' più attuale, diciamo, ecco. Questo è anche forse più vicino anche ai nostri tempi. Eccolo qua. Parlavamo prima di eroi del fumetto e di sportivi. Io ho pensato a tre personaggi. Voi avete qualche anno più di me, qualcuno è anche più giovane, ma vi ricordate Zagor nei fumetti, no? C'era Tex, c'era Zagor, no? Roba da uomini, ecco, lo sapevo. però come donne, voi vi ricordate, sapete cos'è l'alce nero, no? Il padre del biologico in Italia, l'alce nero è un marchio del biologico, la pasta per esempio col farro, la pasta integrale, l'alce nero, oppure tutti i prodotti. Ecco. E qui parlo di Gino Girolomoni insieme a Zagor. Allora, Gino Girolomoni, padre del biologico in Italia, è stato secondo me uno dei più grandi, che poco conosciuti, però insomma, se andate all'Isola del Piano vicino Pesaro, Urbino, andate proprio a mangiare la sua pasta. Lui ha lì sistemato un monastero, e io con mia moglie ci sono stato e abbiamo fatto anche la notte lì. È stato straordinario, perché tra l'altro è passata la crema appunto degli intellettuali italiani e anche persone, insomma, di una certa levatura. Ho detto: mamma mia, su qua. A parte essere sul monastero è un'esperienza, sì, non sembrava di essere, insomma, comunque, insomma, una cosa meravigliosa. La cena è stata di una sorprendente, ecco. Quella è stata una qualche cosa di sorprendente. Vabbè, allora io parlo anche di lui. Oltre a Zagor e a Gino Girolomoni, padre del, parlo di Roberto Baggio. Vi ricordate Roberto Baggio? No? Tra l'altro la mia età. Ecco, Codino, Divin Codino. Zagor, Roberto Baggio e Gino Girolomoni. Un eroe del fumetto, un calciatore iconico e un innovatore dell'agricoltura biologica. Apparentemente distanti, incarnano tre modi di vivere con integrità però e dedizione a una causa che li supera. Nonostante la diversità dei loro mondi, condividono una sinfonia di valori. Giustizia, anche se in modo fantasioso, Zagor, perché è un personaggio inventato, però i valori ci sono, no? Sacrificio, passione e un profondo legame con la propria missione, attraversando il tempo e lo spazio per lasciare un segno durevole. Zagor, lo spirito con la scure. Vive e combatte in una terra sospesa tra la cultura dei coloni e quella dei nativi americani, per mantenere un equilibrio fragile tra due realtà spesso in conflitto. La sua scure è sinonimo, anzi è simbolo, di potere ma anche di equità, un'arma con cui cerca di difendere i più deboli e di affrontare le sfide morali che incontra sul cammino. La foresta Darkwood per Zagor è più di un ambiente, è il suo tempio, il cuore della sua missione e della sua esistenza. La sua giustizia non è mai superficiale o schematica, è un'idea fluida e complessa che lo obbliga a confrontarsi costantemente con scelte difficili. Scrittura da uomini, me ne rendo conto, è personaggi di uomini. Un episodio significativo, la marcia della disperazione, questa è una puntata di Zagor che mi è rimasta particolarmente impressa, lo vede in una situazione limite. Deve decidere se proteggere una carovana di europei che, pur consapevole di aver devastato le terre e le vite dei nativi, sono comunque in pericolo di morte. In questa scelta emerge un aspetto cruciale del suo carattere: la capacità di sospendere il giudizio e di agire per il bene comune, anche quando non esiste una risposta giusta in senso assoluto. È una tensione tra giustizia e compassione che avvicina Zagor a una dimensione umana e universale. Roberto Baggio, con il suo stile elegante e la sua proverbiale coda di cavallo, è stato molto più di un grande calciatore. Come Zagor, vive in bilico tra forza e fragilità, portando sul campo una sensibilità che raramente si associa al mondo sportivo. La sua carriera è segnata da momenti di gloria e sconfitte cocenti, da successi e infortuni che lo hanno costretto a ridefinire continuamente i propri limiti e a mettersi alla prova. Se Zagor incarna il giustiziere forte ma tormentato, Roberto Baggio rappresenta un campione che non ha mai temuto di mostrare la sua vulnerabilità. La capacità di reinventarsi in cambio, di passare da attaccante a trequartista, di adattarsi a ogni circostanza, lo rende affine alla versatilità di Zagor e, aggiungo io, anche di Bruce Lee, che naviga tra diversi mondi senza mai appartenere del tutto a uno solo. Ma il vero legame tra Baggio e Zagor risiede nella dimensione umana. Entrambi portano con sé un senso di giustizia che trascende le regole e la convenienza. Baggio, che ha subito innumerevoli infortuni, soprattutto alle ginocchia, avrebbe potuto rinunciare al calcio, ma ha scelto di continuare. La sua frase «Non esiste vita senza passione» è emblematica di un approccio al gioco che è quasi mistico. Una sfida interiore che lo ha portato a superare sofferenze che altri non avrebbero sostenuto. Non a caso adesso non gioca neanche più, cioè non può neanche fare nulla di fisico se non stare dietro all'orto, insomma, a casa. Come Zagor, affronta ogni battaglia con una forza d'animo che nasce dalla consapevolezza dei propri limiti e da una passione mai spenta. E arriviamo a Gino Girolomoni. Un uomo, ecco, quando vi dico queste cose, poi andate a vedere chi è, su internet trovate tutto, ma andate a vedere la storia di quest'uomo. Tra l'altro ha scritto un libro bellissimo, non so se ce l'avete, che parla proprio della missione, è una cosa meravigliosa, che tra l'altro ha la prefazione di Petrini, dello Slow Food. Insomma, vabbè, vado avanti perché sennò vedete gli argomenti si accavallano, tra l'altro devo tenere d'occhio il tempo. Gino Girolomoni, un uomo che ha scelto di dedicare la vita alla terra, incarna un altro tipo di eroe, il pioniere, che sceglie di andare controcorrente per seguire una visione più grande. Negli anni 70, quando la maggior parte dei giovani si allontanava dalle campagne per cercare lavoro nelle città, Girolomoni decide di restare e di trasformare il proprio legame con la terra in una missione. La sua non è un'agricoltura qualsiasi, è una pratica che si radica nel rispetto della natura e nella ricerca di un equilibrio che restituisca dignità all'ambiente e all'uomo. Girolomoni è stato uno dei primi in Italia a credere nell'agricoltura biologica, ma quella vera, affrontando le sfide di un mondo dominato dall'industrializzazione agricola. Così come Zagor vive in simbiosi con la foresta di Darkwood, Girolomoni considera la terra come un dono sacro, da proteggere e da valorizzare. Con la ristrutturazione di un antico monastero ha creato un centro agricolo che rappresenta un modello di sostenibilità è di rispetto per il passato. Non solo, ha scelto di non piegarsi alle logiche del mercato, evitando la grande distribuzione per puntare su canali alternativi e sul commercio equo e solidale. Questa scelta riflette una concezione di giustizia che non riguarda solo la natura, ma anche le persone e il loro diritto a una vita rispettosa e sostenibile. Girolomoni ha creato un'alternativa reale al consumismo, sfidando le logiche della produttività a ogni costo. Nonostante le loro diversità, Zagor, Baggio e Girolomoni sono uniti da un filo invisibile. La dedizione è un ideale che li porta a sacrificare parti di sé in nome di una causa più grande. Zagor difende senza sosta la pace e l'equilibrio della foresta. Baggio porta la sua sensibilità e la sua etica nel mondo del calcio, mantenendo sempre un legame profondo con le proprie radici. Girolomoni, infine, trasforma la terra in una visione alternativa e autentica di progresso. Il sacrificio è la linfa che alimenta le loro esistenze. Per Zagor è la lotta quotidiana tra il giusto e l'umano, per Baggio la sfida contro il dolore fisico. Per Girolomoni è la scelta di una vita che rinuncia al profitto per preservare la qualità. Ecco, questa è un po' la descrizione di tre personaggi completamente diversi che hanno un loro modo di essere che fa veramente pensare, no? Fa andare oltre. Io adesso vorrei leggervene uno un po' più difficile, posso? Sì, certo. Siamo qua. Ma non voglio, perché sono argomenti molto, molto belli e anche difficili. Allora, sono tre idee, tre pensieri. Il cuore, inteso come organo, ma non solo, il cuore. Gli animali e l'oscurità, il buio, l'oscurità. Allora, questo tra l'altro è uno di quelli che sono piaciuti di più e che insomma ne hanno parlato più a lungo anche i critici, insomma, che l'hanno letto. È quello che un po' si avvicina un po' di più alla poesia, ecco, se vogliamo, anche se lungi da me l'idea di essere o di diventare poeta, insomma. Però gli argomenti sono davvero, davvero, poi sentirete come sono trattati. Il cuore, gli animali e l'oscurità rappresentano tre sfere apparentemente distanti, ma che condividono un legame profondo, radicato nella nostra esperienza umana e nella relazione con il mondo che ci circonda. Questi tre argomenti ci costringono a riflettere sui confini della nostra percezione e comprensione, su ciò che siamo disposti a vedere e accettare e su ciò che scegliamo di ignorare o di temere. Esplorare punti in comune e contraddizioni, in questo caso tre, ci permette di cogliere non solo le loro divergenze, ma anche di avvicinarli in un dialogo simbolico che ci interroga sulla nostra stessa natura. Il cuore è spesso inteso come il centro del nostro sentire, uno spazio sacro dove nascono emozioni e pulsioni. La contemplazione del cuore è un atto che va oltre la semplice osservazione, diventa un'apertura al mistero e al silenzio. Scusate, e al silenzio, come l'augur, l'interprete del volere degli dèi. L'augur che circoscrive il cielo per interrogare gli dèi. L'anima umana cerca risposte nelle profondità del proprio cuore, interpretando i segnali che vi appaiono come messaggi divini. Non si tratta di selezionare solo le emozioni che ci piacciono, ma di accoglierle tutte, riconoscendo ogni visitatore interiore come portatore di un significato profondo. Questa visione del cuore come tempio aperto alla contemplazione si collega alla sensibilità verso ciò che non comprendiamo immediatamente, come la lingua e i comportamenti degli animali, e l'oscurità, il buio stesso. Tenete conto che qui andiamo anche al di là del significato delle parole stesse. Perché con cuore prendiamo tantissimi valori, insomma. Gli animali, nella nostra percezione umana, sono spesso visti come creature istintuali, governate da bisogni primari di sopravvivenza e di riproduzione. Li giudichiamo come esseri che non parlano, che non possono capirci, eppure sappiamo che c'è una complessità nelle loro vite che ci sfugge. Gli animali, come gli esseri umani, vivono esperienze di sofferenza, gioia, amore e compassione, ma la loro esistenza ci appare misteriosa, proprio come il cuore. Un linguaggio non decifrabile, ma sentito. La loro presenza vicina e distante allo stesso tempo ci obbliga a riconoscere che l'alterità non è solo una questione di parole, ma di sguardi, movimenti, esistenze che si incrociano senza anche comprendersi completamente. Eppure, anche senza parole, tra noi e gli animali esistono momenti di intesa, dove il confine tra la nostra comprensione e il loro silenzio si dissolve. In fondo, come il cuore che accoglie tutte le nostre emozioni, anche il nostro rapporto con gli animali ci chiede di abbracciare ciò che non possiamo completamente capire, afferrare. L'oscurità, quando chiudiamo gli occhi e ci immergiamo nel non sapere, diventa un luogo di smantellamento delle certezze. È un movimento sottile, invisibile, che scompone le nostre convinzioni e ci apre alla possibilità di rivelazioni improvvise. In questo senso, l'oscurità è simile al cuore e al mondo animale, un luogo che non possiamo capire pienamente, che sfugge alla logica razionale, ma che ci offre intuizioni profonde. Come un pesce che attraversa l'acqua senza porsi domande, l'oscurità ci insegna a muoverci attraverso la vita, accettando il non sapere, il mistero. Non dobbiamo sempre avere delle risposte, perché a volte è proprio nel lasciarci attraversare dall'oscurità che le risposte arrivano, frammentarie e inaspettate. Ciò che accomuna cuore, animali e oscurità è l'elemento del mistero, dell'incomprensibile, che può essere solo vissuto, non pienamente decifrato. Il cuore, nella sua funzione contemplativa, ci invita a non selezionare solo ciò che capiamo o ci piace, ma a fare spazio all'inatteso, al misterioso, al sacro. Gli animali incarnano l'alterità, che vive accanto a noi, con linguaggi e codici che possiamo solo intuire. L'oscurità, infine, è il campo dove ogni certezza si dissolve, ma in cui può emergere una nuova forma di sapere. Allo stesso tempo, questi tre ambiti possono sembrare inconciliabili. Il cuore è il luogo di sentimenti complessi e riflessioni intime. Sembra opporsi all'immagine cruda degli animali che cacciano e si sbranano, secondo l'idea comune. L'oscurità, con il suo movimento disgregante, può apparire minacciosa di fronte alla stabilità emotiva che cerchiamo nel cuore. Eppure proprio queste contrapposizioni possono avvicinare i tre argomenti. L'oscurità del non sapere può portarci a comprendere meglio il cuore e i suoi moti, così come l'incomprensione degli animali può insegnarci l'umiltà di fronte al mistero, spingendoci a osservare con occhi nuovi il mondo che ci circonda. Ecco, il cuore, gli animali e l'oscurità sono tre aspetti della realtà che ci mettono di fronte a che cosa? Ai nostri limiti di comprensione, di linguaggio, di controllo. Ci invitano a lasciare andare le nostre certezze, ad aprirci a una dimensione più profonda e di relazione con il mondo. Se da un lato ci sfidano a confrontarci con l'ignoto, dall'altro ci offrono la possibilità di scoprire nuove verità attraverso la contemplazione, l'accettazione delle alterità dell'altro, del diverso, e l'abbandono delle sicurezze nell'oscurità. Ecco, questa è un po' la visione, un po' più, diciamo, filosofica, ecco com'è stata. Qui tra l'altro è stata una cosa molto bella, perché mi è capitato di leggerlo, e c'era, non so se avete mai avuto occasione di leggere o di sentire in qualche commento, padre Guidalberto Bormolini. Bormolini è un monaco, diciamo, che ha fondato un borgo per il fine vita, diciamo, è un tanatologo, ma è di una cosa meravigliosa perché lui ha questa visione, no? E dopo è un grande maestro di meditazione. E appunto leggendo questo brano qui mi ha detto, per forza, dice il silenzio, la meditazione, no? E lui insegna la preghiera del cuore, no? Perché dice che il cuore è proprio il centro a cui ci rivolgiamo se vogliamo stare bene, no? E dove dobbiamo fare? Tante volte anche nell'oscurità, no? E tante volte magari con un gatto vicino, o un cane, o un nostro caro amico, insomma, che spesso, insomma, non ha l'importanza che dovrebbe avere, ma hanno un'importanza straordinaria, insomma. Lo vedo io che non volevo cani, me ne sono toccati due, belli anche grandi, perché sapete come va a finire, no? Sono dei figli, naturalmente. Entrambi i figli prendono il cane, perché adesso non si sposano e non fanno più figli, ma prendono i cani. E i cani te li lasciano a te. E ho questi due cani meravigliosi. Ed è veramente qualcosa di. È proprio un dialogo, no? Che si intrattiene. E lì mi è venuta anche lì un po' l'idea, no? Dell'avvicinarli al discorso del cuore e della meditazione o della contemplazione, che dopo ognuno vive a modo proprio, insomma. C'è chi la vive con la preghiera, chi la vive con proprio una contemplazione che può essere mindfulness, o qualcosa anche di scientifico, insomma, no? Come esiste anche la meditazione, quella scientifica, che è per sentire, no? Se sei nel qui e ora, no? Ecco qua. Io vi ho sbandierato, come si dice, un po' di argomenti. Cosa ne pensate? Vi piace un libro? Può avere un futuro un libro del genere? Può essere ricordato? Può essere utile più che altro? Perché la cosa che mi piace è capire di aver fatto una cosa utile, insomma, ecco. Che può essere colta da chi legge, perché poi il mistero è tutto lì, è un rapporto tra chi scrive e chi legge. Se c'è qualche domanda, io sono qui. Volevo rispettare l'ora come è giusto. È difficile. No, no, magari io adesso ho parlato l'ultimo argomento, insomma, è un po' la ciliegina, ecco. Però come ha fatto sua mamma, comincerò a leggerlo, ecco, e poi scriverò le parole E andrò in cerca di e poi quello. gliele mando, poi le spiego a me. Ecco, no, volentieri, volentieri. No, diciamo che è un saggio impegnativo, me ne rendo conto. Perché anche quando l'abbiamo scritto, sai, si parte, poi vedi che anche delle persone che insomma hanno fatto un po' di strada, insomma, anche in ambito di scrittura, ti incontrano, perché mi è capitato di incontrarli, e mi dicono: caspita, ma avessi fatto anch'io una cosa del genere, mi ha detto: guarda, che forse no. Io l'ho fatto con la massima umiltà, perché non sono un saggista, sono uno storico, uno che si è sempre occupato di fatti e soprattutto è vicino alla letteratura più che alla saggistica, però è nata questa cosa qua e adesso vediamo come sarà recepita, ecco, Bisognerà leggerlo. quello sì, Sì. quello sì, quello sì. La scelta dei personaggi tipo Baggio È casuale, è casuale. tante volte è casuale. Beh, Perché Baggio ci sono perché. tanti altri personaggi di Sì, questo sì, tipo sì, sì. che hanno patito, che hanno Certo, sofferto certo, fino certo. tuttora, insomma, no? Mamma mia. La scelta proprio di Baggio è stata una scelta casuale o proprio l'aveva. No, è stata casuale. Tra l'altro è stato uno dei primi che avevo scritto. Casuale, ma anche un po' perché conosco Conosci? molto bene, insomma, la sua storia. Tra l'altro io non ho neanche accennato al fatto del buddismo, perché lui è riuscito anche a uscire grazie al buddismo. Perché volevo forse più che altro per il discorso degli infortuni, no? Però gran merito l'ha avuto il buddismo, per la sua. Però mi piaceva accostarlo a questi personaggi. Mi è venuto in mente lui, forse perché anche lui cura l'orto e Girolomoni ha questo amore per la. Così, non lo so. Il bello è proprio la casualità, perché tante volte mi sono messo lì, ho detto, mi informo di questa cosa qua, di questo personaggio, e poi a chi lo accosto? Ed era se vedete all'inizio sono completamente diversi uno dall'altro, più si va verso la fine sono anche simili tra di loro, però mi accorgo che alle volte spesso certi personaggi simili sono molto diversi, perché ognuno ha interpretato, che ne so, Brahms e Liszt nella musica classica erano due modi completamente diversi di affrontare la musica, insomma. Ecco, poi lì è la casualità proprio di trovare il collegamento, no? Quando dici aveva un pessimo carattere, ma quell'altro invece è un carattere molto docile, molto, ecco, vedi, questa è una cosa contraria dei due, però magari perché aveva un brutto carattere, magari si trova nella sua storia, nella biografia, un momento difficile che ha passato, e per cui sono tutti fatti, insomma. Adesso per esempio sto finendo, no, dovrebbe essere pubblicato, che questo, oltre a quello della Maremma, esce un altro libro che ho fatto con un'amica biologa, su Eva Mameli, la mamma di Italo Calvino, che era una scienziata botanica di fama notevole, che è stata un po' oscurata dal figlio, insomma, perché è il contrario, no, di solito. E invece che di solito i genitori che magari hanno un figlio che è schiacciato dal peso della fama dei genitori, no? Non so, mi viene in mente i figli di Celentano, che spesso, insomma, lo vedo anche ad Asiago. Questa donna, che tra l'altro è di una intelligenza straordinaria, l'ho conosciuta, ho conosciuto la sua storia proprio mentre mi occupavo perché ho parlato di Calvino, mentre, cioè, sono tutte cose, no, che tu ti metti gli studi degli argomenti e dopo magari ti servono per fare un libro, poi ti servono per fare un altro libro che... Per esempio ho parlato, cioè, qui parlo anche a un certo punto di emigrazione, perché la mia specializzazione è proprio la storia dell'emigrazione italiana, no? In America, quindi fine 800, inizio del 900, la grande emigrazione, eccetera. Studiando l'emigrazione, un giorno metto fuori, cerco per fare, volevo fare un libro su un emigrante trentino, tra l'altro, che è in Brasile, e, perché ho trovato una foto. Ho trovato una foto in un locale che, tra l'altro, mi pare fosse addirittura della Val di Cembra, ed era una foto di indios insieme a dei cacciatori trentini. E c'era scritto sotto una cosa tipo la caccia è stata prodigiosa, no? E io guardo e ho detto, ma cos'è sta storia della caccia? E dopo mi vedo una bambina indios. Praticamente, oltre agli animali che avevano cacciato, avevano preso anche una bambina. Poi sono andato a fondo, era vero, prendevano questi bambini e li tenevano come... Sì, come schiavi, insomma, ecco, era una cosa... Fatalità, io metto fuori questo articolo e mi scrive un collega scrittore, che tra l'altro è partecipato allo Strega, anche Paolo Malaguti, che è uno... E ha fatto questo libro, che dopo, tra l'altro, è stato in cinquina al Campiello, con una storia che gli ho fornito io direttamente. E dopo lui, cercando storie, no? Lui prende, quando va alla cinquina al Campiello, vedo la dedica del libro, fa dedicato a Marco Cristiano. Cioè, ma io ti ho fornito, ma dopo il libro l'hai scritto te, no? Ma alle volte, grazie a delle notizie che vengono trovate, ti mandano ad altre... Cioè, il mio modo di percorrere, diciamo, la strada nella cultura è quello di passare da un argomento all'altro. Cioè, un argomento mi dà l'informazione di un altro e viceversa. E io ho sempre questa curiosità di completare dei puzzle, no? E di completare, e nascono queste cose qui che quest'anno ce le abbiamo fatte un po' troppe. Già qua, se ci pensa, 54 per 3, 162 sì. Personaggi... oppure idee, oppure... Sì, sì, sì, sono tante. Da approfondire, da valutare. Sì, sì, sì, assolutamente. Sì, ho trovato magari delle cose più pop per avere un po' più di facilità, popolari. Per esempio una cosa che avevo fatto nel libro, avevo fatto tre, me ne hanno bannati, perché ne avevo fatti ancora di più, e uno era sul mio mito assoluto, che è Luciano De Crescenzo. Quello che ha scritto, sì, i miti, sì, della filosofia, sì, mi piace da impazzire, proprio il senso dell'umorismo che ha. E lui mi fa, no, ho detto, ma puoi mettermi Luciano De Crescenzo? Perché ho detto, ne hai fatti troppi pop, no? detto, cerca di mettere, beh, detto, devo mettere solo gente seria, che bisogna mettere qualcuno anche un po' dei fumetti, perché altrimenti non si capisce il concetto, no? Perché magari, insomma, se si parla solo di filosofi o di musicisti o di chironomia, no? Che è la gestualità, la scienza della gestualità di cui parlo, cioè è una cosa difficile, insomma, bisogna spiegarla con degli esempi facili. È per quello che passo da un argomento all'altro, perché proprio la mia indole probabilmente è quella proprio di andare in cerca da una parte all'altra e poi sì, diciamo che è stato un po' ideale fare questo saggio perché ho un po' messo insieme tutte le cose, le tante cose che avevo messo, fatto, insomma. Ecco, spero di aver risposto perché devo aver fatto un po' di. Devo aver passato. Essere Molto passato. banalmente, ecco, volevo dire, sono stata attirata proprio dal titolo, questa l'armonia del tre, Eh sì. ecco. E questo, dato il termine armonia, no? Che indica una relazionalità, Certo. ecco, a cui si presta molta attenzione. E poi quello appunto della triade, insomma, ecco, quindi dell'includersi sull'uno, no? Non polarizzarsi, e quello della sintesi, di metterlo insieme, quindi una dimensione che unisce. In un atteggiamento Certo, di apertura, certo. di ricerca e di non chiusura, ecco, questo proprio, e poi questa presentazione, questa così, mi ha Beh, molto l'armonia, toccato, no, ma. proprio per come atteggiamento. Umano proprio nei confronti del cammino della vita, appunto, Sì, come cammino, e certo. allora può essere appunto la metafora del fiume che scorre, no? Dell'acqua che si muove, che Sì, scorre, Pantarei. eccetera, oppure è anche quello di un cammino che comunque si svolge sempre con le curve, no? Perché È non c'è indispensabile. una visione precisa dall'inizio alla fine, ma ogni curva può Non ho mai. presentare le sue diversità e quindi gli atteggiamenti anche di apertura oppure di chiusura con tutte le conseguenze che si No, sono hai sviluppate in indovinato, questo il processo. discorso dell'armonia è fondamentale. È Dell'armonia. fondamentale, infatti, se in ogni 50, in ognuno dei 54 probabilmente c'è la parola armonia, perché a parte che è una parola molto musicale, è molto legata alla musica, tanti pezzi sono legati alla musica, anche sia classica che jazz, che moderna, insomma, ecco come la vogliamo definire. E dopo è fondamentale quello del discorso che ha detto del cammino, perché sento anche un po' adesso la passione che da tanti anni mi anima e mi tormenta, che è quella del camminare, del cammino, è qualcosa che avvicina alla parola armonia, perché tu cammini per trovare l'armonia. E spesso quello che mi ha assegnato in questi anni, un po' che ho dedicato anche poi questo libro, insomma, che ce l'avevo in mente da diversi anni, era quello di tenere a mente tre argomenti che poi mi sbrigavo a mettere su carta, a bloccare le idee e poi a informarsi, a cercare di argomentare. Ecco. Grazie Grazie di tutto. mille.